Capitolo 38. Costa olandese, nei pressi di Rotterdam, 20 luglio 1534. Il vento muove i ciuffi d'erba sulle dune basse, come fossero barbe, menti di giganti. La piccola baracca che ripara le barche dei pescatori sembra restar su per miracolo, marcia di salsedine burrasca. Il sole sta per spuntare, non più notte, non ancora giorno. Una luce rosata che illumina i gabbiani mentre planano placidi a contendersi coi granchi i pesci morti, sfuggiti alle reti della nottata. Risacca lenta, marea bassa. Una nebbia fine nasconde il limite della spiaggia a nord e a sud. Nessuno. Piccoli insetti corrono lungo il tronco portato qui da chissà dove. Le mani stringono la corteccia umida. La guida che mi hanno assegnato ai fratelli di Rotterdam ha detto che il posto era questo. Non ha voluto aspettare. Van Bracht non è il tipo che incontri a cuor leggero. Tre ombre allungate sulla sabbia, all'estremità sud. Eccoli. Le mani scivolano sulle pistole, incrociate sotto la cappa che mi protegge dalla brezza del mare del nord. Si avvicinano lenti, affiancati. Facce scure e inespressive, barbe ispide, bluse gualcite e spade a tracolla. Non mi muovo. Arriva una portata di voce. «Sei il tedesco?» Aspetto che si avvicinino ancora. «Chi di voi è Van Bracht?» Alto, corpulento, volto mangiato dal mare e dal sole, un corsaro di piccolo cabotaggio che dice d'aver assalito 20 vascelli spagnoli. «Sono io! Hai portato il denaro?» Faccio tintinnare il sacchetto alla cintura. «Dov'è la polvere?» Annuisce. È arrivata ieri notte. 10 barili, giusto? Dove? 3 paia di occhi su di me. Van Bracht muove appena la testa. Gli imperiali battono la costa. Non era sicuro lasciarla qui. È alla vecchia diga, mezzo miglio più su. Andiamo. Ci incamminiamo. 4 tracce parallele sulla sabbia. Tu sei Gerrit de Beukbinder, non è vero? Quello che chiamano dal pozzo? Non c'è curiosità, non c'è enfasi nel chiederlo. Sono quello che compra. La diga è una palizzata di legno marcio. Il mare l'ha forata creando un piccolo canale che si addentra nell'entroterra. In cima svetta il casotto basso del guardiano. I barili sono coperti da una vela logora su cui passeggiano le rondini di mare. Quando la sollevano, un nugolo di mosche abbandona il pesce puzzolento stipato nelle casse. Sotto, i barili allineati. Uno dei 3 mi lascia scegliere. Indico quello al centro. Fa saltare il coperchio e si fa da parte. Il pirata vuole rassicurarmi. Viene dall'Inghilterra. Il fetore del pesce terrà lontani gli sbirri. Affondo una mano nella polvere nera. È asciuttissima, sta sicuro. Come la trasporto? L'indice punta dietro le dune, dove scorgo la testa di un cavallo e le ruote alte di un carro. Prosegui da solo. Slaccio la borsa e gliela tiro. Mentre li conti, i tuoi possono caricare. Gli basta un cenno della testa e i 2 di malavoglia sollevano le prime botti, cominciando ad arrancare goffi verso il sentiero. Un gabbiano lancia un grido sopra le nostre teste. I granchi scivolano sotto la carcassa di una vecchia barca. Il sole comincia ad attutire la brezza del mattino. Pace assoluta. Van Bracht finisce di contare. Sono sufficienti, compare. Stringo forte le 2 impugnature. Non è vero, sono meno della metà di quanto pattuito. L'indecisione di un momento. Non può vedere le pistole sotto il mantello. La taglia su Gerda al pozzo vale 10 volte tanto. Non gli lascio il tempo di muoversi. Il colpo gli esplode in piena faccia. Tornano indietro, di corsa, spade sguainate. 2 contro 1. Verso la polvere nella pistola scarica. Infilo il pallettone. Ancora polvere. Più in fretta. Spingo giù lo stantuffo. Tiro il grilletto. Sono a pochi passi. Braccia tese. Un respiro. Senza tremare. Miro le membra in movimento. 2 colpi. Quasi all'unisono. Il primo frana i miei piedi. L'altro cade. La sua pistola fa fuoco. Forse sono già morto, ma il mio fantasma estrae una daga corta e gliela pianta in gola. Un rantolo. Silenzio. Resto fermo. Guardo i gabbiani che tornano a posarsi sulla spiaggia. Devo caricare i barili da solo. Rotterdam, 21 luglio 1534. E con questi fanno 50. Adrianson finisce di assicurare le armi, poi mi consegna la lista del carico. 50 archibugi, 10 barili di polvere da sparo, 8 barre di piombo e 10.000 fiorini. Occorreranno due carri. Reinhard ti ha dato i salvacondotti? Eccoli. Dice che sono praticamente autentici. Il sigillo è uguale a quello che usano all'Aia. Serviranno fino al confine. Poi dovremo pensare a qualcos'altro. Partiamo prima possibile. Dobbiamo ancora fare tappa a Nimega e a Emmerich. E non so quanto tempo ci fermeremo. Sarà un viaggio lungo. Dovremmo evitare le strade più battute. Il maniscalco mi offre uno dei rotoli di tabacco essiccato delle Indie. Dice che ha imparato a fumarli dai mercanti olandesi. Gli spagnoli li chiamano sigari. Fanno l'odore di un altro mondo, di capanne, di cuoio e pepe verde. Il sapore è aromatico e lascia un gusto piacevole in bocca. Ci buttiamo sulle brande offerteci dal fratello Magnus, predicatore della comunità battista di Rotterdam. La sua mensa è frugale, ma la generosità verso la causa gli perdona ogni mancato banchetto. Lasciamo che il fumo ci avvolga insieme ai pensieri, per poi rimanere sospeso in mezzo alla stanza, ricavata nel solaio di casa. I fratelli di quaggiù sono gente mite, ammirano Münster e per noi hanno fatto ponti d'oro, ma non sfiderebbero le autorità con un'insurrezione. Si accontentano di praticare la propria fede in segreto, nei ritrovi notturni, nelle letture comuni. Non ho incontrato lo spirito combattivo che cercavo. Generosità e stima invece si sprecano. È difficile biasimarli. Nelle grandi città mercantili le cose non vanno come nella nostra città-stato tedesca. Qui si aggiungono gli spagnoli, hanno l'imperatore in casa. Ho scoperto però che esiste un partito degli scontenti, pochi fratelli turbolenti che vorrebbero seguire il nostro esempio. Pochi e inesperti, senza un vero capo. Hobbe Philips ha sconfessato il suo passato di apostolo di Mattis e finge di aver sempre sostenuto la vita moderata di oggi. Poi c'è il giovane David Joris, di Delft, brillante oratore, che il nostro ospite ci ha decantato come una guida promettente. Pare che le sorti future del movimento dipendano in buona parte da costui. Sua madre è stata una delle prime martiri battiste, decapitata all'Aia quando David era piccolo. È ricercato in tutta l'Olanda come il criminale più pericoloso, per questo è difficile incontrarlo. Non ha fissa dimora, sempre in giro, arriva e se ne va. Usa spesso nomi falsi, perfino con i confratelli, per paura degli infiltrati. Pare che non disdegni il saccheggio delle chiese, ma anche lui, come Philips, sconfessa duramente l'assassinio. La situazione non è affatto stabile, ma questo non significa che tutto non possa risolversi in un sacco di belle chiacchiere. E intanto, domani saremo di nuovo in marcia, sulla via del ritorno, con il nostro carico prezioso da sottrarre ai posti di blocco e agli occhi più indiscreti. Ancora due comunità da visitare, in capo a un mese, a Münster. Buonanotte, Peter. Buonanotte, capitano.